No, it won't be low, it won't be low. No, it won't be low, you did me wrong. I tried to tell you, leave me. You tried to say, I know what you are feeling, it's a deja vu. I know your heart is easy to break into. No, it won't be love, it won't be love. No, it won't be love, you did me wrong. I didn't make it up, I did all that I could. All that I could do, yes, all that I could do. Che siamo in compagnia del duo impossibile Clio and Maurice. Pronto? Ciao, ci siete? Ciao, eccoci qua. Clio Colombo e Martin Nicastro, grazie di essere qui in nostra compagnia Radio Città Fujiko. Come state? Dove siete? Bene, grazie a voi per averci, siamo molto contenti. A Milano, chiusi in casa. Esatto, siamo in... È un'ottima scusa per, come dire, lavorare, tirar fuori qualcosa di interessante. Puntare sulla creatività magari. Esatto. Un pretesto. Ma allora, partiamo un po', insomma... a esplorare un po' la vostra arte, perché voi siete un duo molto particolare, bisogna dire, e, insomma, violino e voce. Esatto. Com'è che vi viene l'ispirazione creativa? Come create, come componete? Perché sono, insomma, due strumenti veramente molto differenti. Sì, Clio la voce e Martin violino, dico bene? Esatto. Sì. Esatto, sono due strumenti normalmente solisti, quindi appunto abbastanza improbabili come abbinamento. E come scriviamo? In diversi modi. Abbiamo iniziato con una serie di idee che avevo io sul violino, e poi in realtà con il tempo abbiamo, come dire, usato anche altri strumenti intermedi. Per esempio, magari io scrivo qualcosa al pianoforte, poi lo trascrivo per violino, lo arrangiamo al computer e poi Clio lavora sulla voce. Esatto. È interessante, infatti. Molto, molto, molto interessante, sì. Infatti sono curiosa di conoscere la vostra storia, cioè come vi siete incontrati e come avete deciso di collaborare insieme e fare questa cosa qui. Allora, quando abbiamo cominciato a suonare insieme, in realtà stavamo già insieme da 4 anni. E ah, non c'era mai, non c'era ancora passato per la mente di collaborare in maniera lavorativa, principalmente perché facevamo altre cose. Io mi occupavo principalmente di cover, di soul, mentre Martin faceva parte di un altro gruppo, i Pashmak, e a un certo punto ha cominciato a viaggiare, a fare dei tour, e insomma gli è piaciuta moltissimo questa esperienza, ha deciso di volerlo fare proprio come... Vabbè, diciamo che erano anni che volevamo fare questa cosa, poi alla fine, sai, uno prova un'idea sul momento, anche se è un po' improbabile, come quella di rimanere effettivamente soltanto violino voce, e poi la cosa è nata. Beh, però il pubblico sembra apprezzare, perché ho letto che avete fatto anche un tour in Marocco. Esatto. Sì, ecco, diciamo che la cosa bella di avere così pochi strumenti, cioè uno solo, è comodo. È che è molto comodo viaggiare, sì. Quindi siamo riusciti a fare molti concerti fuori dall'Italia. E come questo tour, insomma, in Marocco, questo concerto in Marocco, come è avvenuto? Siamo stati, insomma, contattati dai centri di lingua americana in Marocco, che sono più di una decina, e sono sparsi un po' per tutto lo stato, e che ogni anno invitano degli artisti europei da tutto americani. Per suonare, principalmente, che fanno musica in inglese, proprio per poter fare interagire il pubblico locale con i musicisti. Infatti si fanno anche dei workshop, e abbiamo avuto questa bellissima esperienza. Abbiamo girato tutto il Marocco, abbiamo conosciuto tantissime persone, visto posti meravigliosi, e insomma siamo ancora felicissimi di questa cosa. La stiamo portando con noi come un grande tesoro, ecco. Eh certo, anche perché immagino che a livello, insomma, anche artistico abbia dato molto per magari le sonorità, insomma, locali, chissà, no? Sì, sì, abbiamo avuto una cultura immensa, e poi anche abbastanza distante da noi. Certo. In senso davvero di, come, specialmente positivo, proprio una boccata di aria fresca. C'è tanto da imparare. Sì. Ma allora, voi avete fatto questo singolo molto bello, Lost. Ce ne volete parlare un pochino? Certo, grazie innanzitutto. Lost è stato un po' la nostra prima canzone vera e propria, mentre i primi pezzi erano più, non so come dire, dei flussi di coscienza. Sì, anche musicalmente erano molto poco ragionati, diciamo. Esatto, questo è stato il pezzo più ragionato, anche sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista del testo, perché parla proprio di un periodo ben preciso in cui mi sentivo proprio persa, intrappolata nei miei pensieri, ed ero quasi incapace di agire. Ah, e diciamo che la musica ha avuto un grande ruolo nel ritirarmi un po' su. Certo, come certo. La musica ti ha salvato. Sì, direi proprio di sì. Ma allora io direi, ascoltiamocela, facciamola sentire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di Fujiko Factory, e dopo torniamo di nuovo insieme con Clio e Maurice. It's under control. Won't be counting this glass. Right, I lost my mind. Try and find what goes on inside. I'm Sarà Lost di Clio Maurice, che sono al telefono con noi. Rieccoci tornati. Ragazzi, ma se volessimo etichettare un po' il vostro genere, esatto, è vero, che genere è? Bella domanda. Sicuramente è pop, però un po' come potrebbe essere pop sofisticato, essere... però dico delle blasfemie, però per capire il genere. Non è assolutamente una, come dire, un paragone di qualità, però come potrebbe essere pop Bjork, ecco, Radiohead. Certo, sì, sì, sì, sì. A me ha ricordato anche molto una cantante danese che si chiama Agnes Obel. Ah, sì, certo. Ecco, esatto. Come sonorità, quel mondo lì, diciamo, che a me piace tantissimo. Siamo di nuovo in studio. Ah, ok, ok. Quindi nuovi progetti all'orizzonte. Sì, sì, e poi abbiamo anche un po' di... canzoni che abbiamo registrato sempre insieme a Lost, e quindi è un momento un po' di organizzazione delle uscite. Poi sicuramente torneremo a suonare con continuità. Continuiamo a suonare. Allora restiamo sintonizzati, perché siamo contentissimi di avervi avuto ospiti e microfoni di Radio Città Fujiko. Quindi ringraziamo Clio e Maurice, e andate ad ascoltare, a vedere il videoclip, che è anche molto bello, di Lost, il loro singolo.